Cominciamo mo? Ok. Abbassa un po'. Ok. Ma gli studi di Fuori Onda Radio in via Ponte Pietro Bucci numero P2 va ora in onda. Ciotie dall'etere, un film scritto e ideato da Tarlo. Tarlo! Dai. Nel boschetto della mia fantasia c'è un fottio di animaletti un po' matti inventati da me che mi fanno ridere quando sono triste. Mi fanno ridere quando sono felice, mi fanno ridere quando sono medio. In pratica mi fanno ridere sempre quel fottio di animaletti inventati da me. Uè! C'è il vitello con i piedi di balsa, il vitello con i piedi di spugna. E indovina chi c'è? C'è pure il vitello dai piedi di cobalto. Fantasia. Buongiorno il vitello dei piedi. Si recò dal vitello di cobalto. Disse c'è il vitello dai piedi tornati che parla molto male di te. Sostiene che i piedi non sono un vero cobalto, ma sono un quattro piedi ricoperti da un sottile stato di cobalto. Sempre tu! Tra le fragole siamo noi! Per questo reato l'ascolto forzato di te. Sì. Ciao. Tira in tosto, indovina cosa è, indovina cosa ti sente. Abbiamo avuto un'anteprima dell'ospite della puntata che vi sveleremo prestissimo. Mi fa il boicottatore di professione, il boicottatore. Ci boicotta i programmi. Ma il battitore di chitarre. Beh? Il boy cotta, il maschile di girl cotta. Ecco questi uomo. Allora, possiamo andare. E benvenuti, buonasera. Benvenuti a questo nuovo format, nuovo programma di Fuori Onda Radio, cari nostri amici radioascoltatori. Bene, da come avrete capito dai primi istanti di trasmissione, ma anche dai primi istanti di non trasmissione, abbiamo un ritardo considerevole e anche allucinante. Un blues allucinante. Bene, noi siamo ciote e in quanto ciote, perché siamo quattro, in quanto ciote abbiamo deciso di condividere con voi questa ciotia, no? Ma in questo caso che cos'è la ciotia? La ciotia? È la ciotia... per dire che cos'è la ciotia, che cos'è la ciotia? La ciotia dal latino ciotus, ciotarum, ciotambarum. E declinazione? il microfono. La prima, la seconda. Ma il vocativo com'è il vocativo? A Ciotum. Ciotum, Ciotus. Il microfono, Ciota. Il microfono. Ma come... Ma il microfono è l'accusativo di... Ma che accusa il microfono? Scusa, perché tu stai parlando al microfono e mi vuoi accusare del microfono? Ma scusa, mi punti il dito? Mi punti il dito? Mica è l'indicativo. Appunta il dito. Punta il dito e parliamo dell'indicativo. L'indicativo, del punto di puntare. Puntare che è... Le... Appunto. Di puntata. Ma infatti questa è la prima puntata di... Fuori Onda Radio e Le Ciotie dall'Etere. Ma ragazze, il diciamo la scaletta era, rispettiamola, diciamo. L'abbiamo persa. Vedi, vedi. Io non la vedo. Cioè, nel senso, nel senso. Volevamo parlare di come fare una puntata radiofonica, cioè webofonica, webofonica. La puntata webofonica. Come puntata ciotofonica. Ciotofonica. E come la facciamo una puntata ciotofonica? Innanzitutto c'è la... Che c'è? La scaletta. Allora, mi hanno passato la scaletta. Quali sono gli ingredienti? Quali sono? Dica, dica. E gli in... Un microfono per ognuno. Mezzo chilo di farina, un cucchiaio di zucchero e... Cannella. Ed ogni cosa è bella. Devi imparare tu, che devi parlare dentro zucchero, il microfono. Zucchero, cannella ed ogni cosa è bella. Va bene. La regia manda, ma che stiamo all'Inghilterra. In regia oggi abbiamo il super ospite. Io ma non mi fido della regia. Eh? Non mi fido della regia, la regia ci boicotta. Boicotta. Come si fa una puntata? Ma vista la gravità dell'argomento, no? Ci stava qualcosa di serio a livello musicale. E non qualcosa lo vedo. Qualcosa di sottofondo didascalia quasi. Ah, sottofondo didascalia. Ma intervistiamo un passante, che ci sarò? Sono di fretta, non posso stare, ciao. Abbiamo gli ospiti in studio. Ma dite una cosa, ma diciamo sul vocabolario, qual sì. è la definizione di ciotia? Vabbè, ovviamente diciamo... Sul Treccani. Sul Treccani, cioè possiamo dire cos'è la ciotia secondo il vocabolario e cos'è la ciotia secondo noi che abbiamo ideato questo programma. Cioè, ma soprattutto sul vocabolario la ciotia c'è. Io ho trovato una citazione a riguardo su Nonciclopedia relativa a Via delle Medaglie d'Oro. Ok, continua però, perché abbiamo il sottofondo. Altre citazioni non ci sono, però in questo senso che cos'è una citazione? Presidente? Presidente? Presidente! E stiamo presidenziando una puntata sul presidente. In sottofondo tutti i peccati c'è. Del presidente, perché il potere vuole nascondere i peccati del presidente e dei potenti. Ma in questo caso intervistiamo un passante. Intervistiamo un passante, signor passante. Ho visto tutto. Lei fa il passante di professione, mi dica cosa ha visto. L'ho vista passare, sembrava come una catapulta, non lo so, era bellissima. Il famosissimo Pino Daniele Cammino. Botti di stronza, bella, datti fuoco. E questo chi era? Esci da questo Pino corpo. Pino Blasfemo Cammino. Pino Blasfemo Cammino. Pino Camminato, Pino... Pino... Pino del Pollino. È un famosissimo Pinus Laricius. Eh? Eh sì. Decisamente un Pinus Laricius. Perché come si dice che se non ti piace dove stai, mica sei un albero, te ne puoi andare. Ma se sei un albero e sei un passante, è un problema. Ma intervistiamo. Meno male che l'accetta c'è. Direi che abbiamo cominciato un programma un'altra gioco. Forma di batterio che si è sviluppato in questo ambiente. Intervistiamo un secondo batterio passante. Batterio passante. faccia assurda, ha fatto una faccia assurda. Ha fatto una faccia. Passante con la maglia viola, ci dica qualcosa. Come si sta? Come va il mercato da voi, Becchini? È un mercato che sempre. È un mercato che sono sempre. Vabbè. Dobbiamo dare una delucidazione, diciamo, dobbiamo dare chiarimenti a chi ci segue. Cioè, noi questo programma l'abbiamo pensato appunto per riflettere nell'etere, cioè nel web. Web. Ciò che si fa nel. Sì, sì, come dice il passante, nel deep web. Cioè, vogliamo riflettere in questa frequenza webofonica ciò che succede nell'aula più occupata. Perché nell'aula P2 occupata dovete sapere, cari amici radioascoltatori, che si fa un certo tipo. Brutto. Si fa proprio brutto. Sì, nell'aula P2 occupata, quando non si ragiona sul nostro futuro e su cosa? Oltre a bestemmiare, Peppone scaricare, bestemmia. Scaricare. E ancora scaricare. Scaricare. E a risolvere strutture. Ah, perché tu studi pure. Strutture scaricate. Sì, si studia più che altro. Sì, mamma. Il sì, 50% studiamo. Del tempo sì, lo facciamo. Però sì. Poi, oltre a bestemmiare. Ma laggiù c'è un passante che non passa più. Bisogna interrogarsi su queste cose. Pino. Interroghiamoci. Pino. Interroghiamo il passante. Passante, sei attirato da qualcosa in particolare? Per quale motivo sosti ancora davanti la porta piuttosto che passare oltre? Stavo osservando la ciotia a che livelli può arrivare. È affascinante. Noi siamo affascinanti. È affascinabile, ma non musicabile. Ma abbiamo una musicabilità oltre l'affascinabilità. Si richiede dalla regia una musicabilità. Musicabilità. Musicabilità. Bravo Peppone. Ciao Pino Cammino ci lascia, lo salutiamo, grazie. Chiamami. Grazie. Un saluto a Daniele. Bene, ma abbiamo capito a come Pino fare ci piace il blues. Ci piace il blues. A Peppone chi ci piace? O blues. Che blues allora? A me no. E Peppone Maria. Taglio. Comunque ci sentono, ci dicono. A me taglio. Amici, ma siccome è una puntata pilota, oltre a fare a fine puntata diremo anche chi è il vincitore del Gran Premio. Diciamo che uno degli ingredienti è la musica, ma tipo, Peppo, che ne dici di caricare una canzone? Canzone a caso. Facci sentire qualcosa, boh. Ma vogliamo presentarla? Ah, Peppone soprattutto è il nostro regista, è il nostro ospite speciale della puntata. Perché noi non sappiamo usare il robot per streamare. Questo qui si chiama sfruttamento, si chiama. La gente l'ha invitata come... Vatta, Peppo, vatta! L'ha invitata come ospite. L'ha invitata come ospite e poi la fate fare la regia. Adesso mandiamo un pezzo di Tu prima ci boicotti, manda il pezzo, va. Aspetta, un annuncio prima. Da adesso fino alla fine della puntata, Peppone prenderà la parola solo in falsetto. Certamente. No, succederà davvero. A rischio che ti faccio qualcosa. E mentre va bene. E mentre parte il pezzo io vado a fare la pipì. Brava Mari, brava. Sì, chi è? Ah, ciao Roger. E no, sto accanto a pezzo, dai. E non te posso far salire, vi conosco a voi Pink Floyd. Poi vi pigliate l'idea mia per fare i dischi vostra. Botte saluto, sta a girar nastro, devo di scarpe, ciao. Scarpe di merda da donna che costano milioni all'uomo. E pensare che tutto questo lo hanno deciso i ricchioni. C'è un cartello di ricchioni che ha deciso che l'anno scorso andava il rosso e quest'anno il blè. Pantaloni a coste che costavano al mercato euro 23, oggi li trovi alla boutique, comprati dalle donne ricche. L'han deciso i ricchioni e io devo accettarlo. La follia della donna, quel bisogno di scarpe che non vuole sentire ragioni. Cosa sono i milioni quando in cambio ti danno le scarpe? Non hai mai pensato a un tatuaggetto? La tua amica sfoggia un tatuaggetto. Corri, corri a farti un tatuaggetto. D'improvviso hai bisogno di un tatuaggetto. Un tatuaggetto. Un tatuaggetto. D'un tratto non ti piace più. Cosa fai? Lo togli. Ne fai un altro più grosso. La follia della donna, il disagio mentale di iniettarsi l'inchiostro con gli aghi, sciabattando poi vaghi. Per le vie della moda in sabore. Vai? Ok, ciao. Allora, leggiamo. Passiamo a un momento più serio dopo la tragicità dei primi momenti con la notizia seria del giorno, perché è un momento serio e parliamo di cose serie. E parliamo di cose molto serie. Sto leggendo un volantino che ho recuperato l'altro giorno alla rotonda. Ma quale rotonda? E tale volantino dice: basta con i crimini di Stato e con questo governo delle banche, basta con questo Parlamento abusivo, banche, basta con le pensioni, gli stipendi d'oro, questa classe politica marcia, lada, cialtrona, corrotta, eccetera. Peppone. No all'IMU, Equitalia uguale crimini di Stato, ritorniamo alla lira e riprendiamoci la nostra sovranità politica e monetaria. Ricordiamo che un euro vale 1936,27, me lo ricordo ancora. Un punto per Flavia. Grazie. Chiediamo le dimissioni del capo dello Stato, del governo e di tutti i parlamentari che hanno bruciato e stracciato la nostra carta costituzionale. Né destra né sinistra. Allora cosa scegliamo? E se non è qui destra? Dice, ma solo democrazia diretta. È una cosa. Ma indiretta, cioè, come noi? Indiretta. È un altro, diciamo, stralcio del pezzo. No a questa Unione Europea, vabbè, no all'euro, no all'infame trattato di Lisbona. Trattato di Lisbona, Lisbona in Portogallo. No, infame come Cicillo. Sì, al Valsoia ci suggeriscono decisamente. No a queste tasse criminali e assassine. Che ne pensiamo? Che ne dobbiamo pensare? Innanzitutto, ma come dovete sapere voi? Per una giustizia giusta. Certo. Come mi suggerisce Peppe, che ne dobbiamo sapere noi, innanzitutto. Ma quindi? Niente, qui è importante la firma. Ma io non ho una già capito, dove dobbiamo stare? Né a destra, né a sinistra. L'importante è essere contro. Ma contro cosa? A metaglio. No, qui dicono, infatti noi non lo noi che siamo a metaglio non lo possiamo capire, portare questo pensiero. Anche perché è firmato Onda Calabra per una giusta giustizia. La giustizia giusta. Una giustizia giusta, ma soprattutto lo scrivono che vogliono la pace nel mondo. Antonia, col microfono devi parlare. La pace nel mondo, la pace nel mondo sta arrivando, e come ci suggerisce una notizia ANSA riguardo dei ansia riguardo di questo volantino imputabile ai forconi PH. Tale notizia dice: Italia, i forconi di tutta Italia sono in sciopero dalle 22 dell'8 di dicembre e continueranno ad oltranza fino a quando non si deciderà di sbloccare i forconi. Non abbiamo intenzione di costringere nessuno a manifestare né di mettere in atto azioni violente. L'unica cosa che ci chiediamo è di unirvi alla nostra protesta. Spaccheremo il culo a voi e alle vostre famiglie. Solo queste le serafiche parole del leader dei forconi, Mariano Acciaio. Senza costrizioni, vi spacchiamo solo il culo a voi e alle vostre famiglie. Non è che uno... Poi, calma. Mariano Acciaio. Voglio Mariano, io me lo immagino. Mariano. È tipo, raga, non è una minaccia, non dovete interpretarla così. È un consiglio. Stiamo scendendo di Oh, voglio... In una puntata pilota non si minacciano, diciamo, gli ascoltatori. Mamma Pomodoro dice al piccolo Pomodoro: rimani concentrato! Non abbiamo recuperato l'ascoltatore, forse perderemo un altro ascoltatore. Vabbè, e qua concludendo dice l'uomo di acciaio, Mariano Acciaio, cioè: non smetteremo di protestare fin quando non avremo tirato sufficiente acqua al nostro mulino. Ma quale mulino? È diviso un chilo di pane per un miliardo di africani. È alla più forcona un passaggio in Jaguar. Ok, ci sta. E quindi si vede l'attendibilità e la serietà di questo movimento comparabile alla nostra... Pane, farina, così. Basta sì, che siamo italiani. Italiabili. È comparabile alla nostra decisa ciotia. E poi qui dicono: gli italiani vittime di questo sciopero hanno ragione. Ma qui silenzio in aula. Invitiamo il pubblico in studio. Boicottatori. Comunque abbiamo più ascoltatori. Ma qui in fondo vediamo un passante seduto stante. Signor passante seduto stante, si alzi. Ciccio Marino, vogliamo Ciccio Marino, Ciccio Marino, sei solo Ciccio Marino. È in diretta da Clandestino CID. Non siamo a Clandestino CID, quella è la concorrenza. Ah, è vero, noi siamo la concorrenza di Clandestino CID, noi però ovviamente siccome siamo persone comunque di un certo livello. Non come certi altri che invece tendono boicottaggi. Noi ospitiamo anche la concorrenza, ospitiamo anche i clandestini. Clandestino CID, devo parlare più basso, scusate. Ciao amici. Ma in realtà quello di... Ma in realtà questo di Clandestino CID c'è stato lunedì, e quindi adesso abbiamo i filmaggini di Clandestino CID di lunedì. Buonasera a tutti. Buonasera Ciccio. Ah, sì, parlo con te. Parla con me. Questa sera faccio l'intervistabile. Guarda come mangi. Molto contento della nuova trasmissione. Ciotia dall'etere. E anche molto contento di aver venduto Peppone Ciotia dall'etere. No, non l'hai venduto, è ospite. Non lo vogliamo noi Peppone. Noi non lo vogliamo Peppone, ci boicotta. Ci boicotta. È solo il nostro special guest. Ah, ok. Va bene ragazzi, io vi auguro il meglio. Andate via. Figlioli, toccatevi. Avanti con le ciotine. Ci auguro il meglio. Il meglio. A metallo il meglio. Ok, va bene. lo so che devo gridare di meno e fare meno la questa festa, però ragazzi, abbiamo parlato per un bel po', cioè, nel senso, diamo un pezzo? Che dite? Ma un pezzo? Un attimo, quale pezzo? Un giusto pezzo dopo aver spammato tanto nelle casse. Quindi ci sta proprio il giusto pezzo. Cosa? Numero due. Un giusto pezzo numero due dopo aver spammato nelle casse. Spamma nelle casse. E qual è il tuo pezzo? Spamma nelle casse. Spamma nelle Senti la cassa, botte nella testa con il basso che devasta. Questo è il suono che ti scassa l'impianto. Nella dance floor fluo persino lo smalto. Guarda chi è che spinge più del solito. Calo giù gli alcolici senza arrivare al vomito. Sgomito tra le altre, scuoto le masse. Pompo nelle casse, pompo nelle casse, pompo nelle casse. Pompon, pompon, pompon, pompon. La mia crew, la riconosci dallo stile. Wow, Frances, clou di ogni situazione ostile. Pompon nelle casse, sale la bile. Pronta per sentire la gente svenire. Pompon. Pompone le casse. Soprattutto Andrè, mi sa che hai il microfono spento. Allora adesso rifai tutta la presentazione di Peppone da capo. Scusate, amici radioascoltatori, ricominciamo. Bene, e adesso presentiamo l'ospite della serata. Ritrova l'entusiasmo, però. Promesso, un virtuoso della chitarra, nonché battitore di chitarra, speaker radiofonico e direttore artistico di Fuori Onda Radio. Scannatore di capretti, odia i gatti specialmente se gli cacano nell'orto. È solare, amorevole, ma non toccategli le orecchie. Signori e signori, Peppone. Ma è soprattutto Cioto. Ciao. In falsetto, Peppone, per favore. Buonasera. Ma non applaudite troppo, perché sennò mi faccio. A metaglio! Esatto. A metaglio, coglio. Mi faccio a metaglio poi. E niente, che vuole, che ne so. Che, come funziona? Ci vuoi parlare di San Rocco? Non voglio parlare di San Rocco. Addormentare, devi fare la prima domanda. Se non mi fate le domande, io che dico? Peppone, dagli il microfono a Flavia. E io come voglio rispondo dire? Senza microfono? No, no, ce la facciamo. Ma tanto faccio una domanda io. Allora, intanto vorrei dare il benvenuto anche al nostro 21 ospite speciale. 21:38. Che c'è? Ci stai mettendo fretta, allora, oltre a darci il piccio? Allora. Ah, allora. segnale orario. Bling bling. Anche ad Arcavacata sono le 21:38. Bling bling. Peppo, perché non mi sento più? Non ti senti più? Non mi sento. Ah no, mi sento. Era caduta la cuffia. Ecco perché non mi sentivo. Allora, beh, innanzitutto vorrei anch'io dare il benvenuto al nostro fantastico straordinario ospite, ringraziarlo perché insomma ci sta dando una mano e dopo aver avuto a che fare con i convene con, come si dice, convene? Non lo so, non li conosco. I conveneboli. Passiamo alle domande. Allora, hai la cuffia sistemata? Ci vorrebbe una musica da Una musica ansia, non ce l'abbiamo. Allora metti una musica. Questa qua. Qual è questa? Abbastanza ansia. Non si sente? Va bene. Allora, passiamo alla domanda. Con la domanda da 30 milioni, okay, partiamo. A cavallo le gambe. Ce l'ho già a cavallo. Ok, bravo. Se no non potrei essere ospite. Allora, Peppone, il tuo ultimo libro è un atto d'amore verso il cosiddetto secolo breve, carico di contraddizioni e scoperte entusiasmanti. Cosa rimane oggi e cosa si è perso del Novecento? E quali sono gli elementi positivi da tramandare a quelli che invece dobbiamo lasciarci alle spalle? Gli elementi positivi sono quelli là. Quali? Quelli che si vedi tu dalla finestra. Dal Novecento? Sì, tu non hai mai visto il Novecento. Gli elementi positivi sono quelli non negativi, innanzitutto. Sì, giusto. Poi sono del Novecento. E basta. Non c'è più gli elementi positivi. Ma il tuo libro qual è? Il mio libro è Elementi positivi del Novecento. Ok, grande. Passiamo alla prossima domanda. Peppone, da grande esperto di calcio quale sei, che cosa consigli ad Antonio Conte dopo la sconfitta? Cosa consiglio? Di usare Pantene L'Oreal per i capelli. Terza domanda. I giovani precari e gli studenti protestano perché si trovano a vivere in un paese allo sfascio e pieno di debiti, che al momento non ha futuro, e sanno che questa situazione non è stata determinata da loro. Che dovrebbero fare? Accettare passivamente lo stato delle cose? Cos'è per te? No, accettare per lo stato delle cose. Secondo me gli studenti e i precari dovrebbero ritornare al passato con una macchina del tempo. Ma una DeLorean? Una L'Oreal. L'Oreal. Bene, ma L'Oreal è lo shampoo che usi tu, no? Perché nel caso lo sconsiglieremo ai nostri ascoltatori. Il nostro Peppone, voi che lo vedete da casa, è bello, è proprio bello. Allora, i non capelli sono sindrome di virilità maggiore. Peppone, il programma è il nostro, Peppone. Non pigliare, diciamo, la parola. Sto rispondendo. Per favore. Questa è la prossima domanda. Ma da dove nasce il desiderio di scrivere un libro del genere, Peppone? Nasce dalle problematiche del Novecento, che essendo un secolo breve che dura meno degli altri, non tutti sanno che il Novecento è durato meno degli altri secoli. Cioè 99 anni. Esatto, il Novecento è durato 99 anni. L'unico secolo della storia a durare di meno. Non si sa perché... Tu lo sai perché? Perché? Ah, aspetta. Ah, ok. Io non lo so perché. Tu lo sai perché? I nostri telespettatori. Telespettatori, lo sapete perché il secolo breve è più corto degli altri? Lanciamo il sondaggio. Ah, il sondaggili. Allora, ripeto la domanda. Amici telespettatori, sapete perché il secolo breve è più corto degli altri? A, perché l'hanno tagliato. B, l'hanno preso gli zingari. C, Peppone è un coglione. Giudicate voi, grazie. C. Io ho sentito che la risposta più... È un plebiscito, 101 persone hanno detto C. Hanno detto D, hanno detto. Non c'era. Io. Allora, allora, andiamo alla prossima domanda. Questa è importante. Allora, devi sapere che Renzi ha puntato tutta la sua candidatura proprio su un cambio di passo anche nel linguaggio. Tu a cosa punti? Io al premio Oscar Luigi Scalfaro. Oscarabile. Va bene. È passato dal passo lungo al trotterello. E Renzi è passato da imperfetto. Non è passato. Renzi è l'amico di Luci. Eh? Il fidanzato di Luci. Renzo. Sì, erano tanti. Le domande. Allora, intanto andiamo avanti col nostro sondaggio su Peppone. Fate il sondaggine, fate. Ma questo sondaggine verrà pubblicato su un sito, su una radio, su un giornalio. Il giornale o Libero? Io sono sul Libero perché è l'unico giornale che leggo. Non è in galera Libero, però devi parlare al microfono, sennò non ti sentono. Ma io direi che passiamo all'altra domanda, no Andrea? Passiamola. Allora, mi sa dire qual è la capitale dell'Uzbekistan? Uzbekistan. Tun tun tun tun tun tun tun. Vuoi pensarci? Abbiamo un conto alla rovescia? Oppure gli zingari? Capitale dell'Uzbekistan. La capitale dell'Uzbekistan dovrebbe essere Ashgabat. Ashgabat è la capitale dell'Uzbekistan. Ashgek. Ok. Non lo so. Ha avuto il tempo di cercare su Google, vero? Bravo, Peppone, bravo. Ma siccome sei stato bravissimo all'ultima puntata di Clandestino Gid, cioè sei stato proprio un logico perfetto, una diciamo. Logico. Proprio i quesiti di logica ti piacciono proprio assai, no? E volevamo fartene un altro. Cioè, fammi il domandone. Nel lancio di un dado, qual è la probabilità che esca il numero 3 o un numero minore uguale a 2? A, un terzo. B, un sesto. C, un mezzo. D, due terzi. E, è impossibile. Allora, qual era la domanda? Peppone sei un pisciaturo. Allora, la domanda era qual è la probabilità che il numero sia 3? Che esca 3 oppure un numero minore di 2? Pisciatura! La probabilità che esca 3 è un sesto, quindi la probabilità che esca un numero minore di 2 è superiore a questo. Ci siamo dimenticati di riportare la risposta, non te lo possiamo dire. La risposta è 7. La risposta è dentro di te. Però è sbagliata. Ma potrebbe essere 7 la risposta. Domanda riserva. Siamo in riserva. Domanda riserva. Perché allora tutto questo? Ma una domanda, ve la posso fare? Allora, una domanda ve la posso fare. Perché si dice che siamo in rosso quando la macchina segna è gialla la lampadina della macchina che segnala quando siamo in riserva? È ambra, a dire il vero. Ambra non c'è. Ma chi è? Chi è che sta parlando? C'è un passante che vuole fare una domanda. Un ospite dai Mozilla Bros. Allora, Peppone, dove preferisci conservare Santo Rocco? Ci chiedono qui. Lo preferisco conservare sott'olio. Sott'olio? Ma poi dove lo metti questa cosa? Lo metto... C'è un boccaccio, due quinti su boccaccio. Nel boccaccio. Però il boccaccio poi lo devi mettere da qualche parte. Dentro il comodino. Comodino? Che cazzo dici, Peppone? Ti dico, si giù comodino, non devi mangiare. E mica si mangia, Santo Rocco? Sott'olio, per dinci, si mangia. Vabbè, mica detto che me lo mangio, lo conservo io. Oh, però visto che è una cosa che si mangia, di si vinta Santo Rocco? Nel frigorifero. Mannaggia la madonna, chi non ci capisce a me. L'olio si quaglia, mi dicono, giustamente. Si quaglia l'olio? 15 dove si mette su Santo Rocco? Si mette sotto il lavandino. Sotto il lavandino, voglio sotto chissà, la panca. Chi è turdo proprio, non ci capisce a me. Mozillo, te lo spiego io. Peppone non sa tradurre in italiano la parola stipu. Lo dici tu che non lo sa tradurre. Io sono poliglottico. Poligrotta sei tu, Peppo. Piedi grotta. Fuori grotta. Fuori onda radio. Ma diamo la risposta esatta. Antonietta, ci aiuti a fare un pochino di chiarimento per i nostri ospiti? Ah. Ma che ne deve sapere lei? Devo dire un nota bene. Cioè, questo programma, nonostante è è multiculturale, eccetera, eccetera, tutte le cose più fricchettone di questo mondo, no? Voglio dire. Però se siete anti bestemmia non lo seguite, cioè voglio dire, qui si bestemmia pure. Cosa ne pensi, Antonietta? Io penso che quando non sai cosa dire, tu dici la parola stipetto che va tutto bene. E porco Dio! Allora io mi rifiuto di andare avanti, questa trasmissione è blasfema. Spero che i miei non stiano ascoltando. Allora, qui ci sono. Allora, devo dare un chiarimento alla signora Lisotti, cioè nel senso. Ogni tanto capita che mentre si studia soprattutto materie tipo scienze, no Flavia non lo fa, tipo scienze delle costruzioni, tipo lo facciamo solo noi dell'area di ingegneria, e ogni tanto ci esce qualche bestemmia. E quindi diciamo la bestemmia in questa puntata è molto forte, perché il nostro special guest Peppone è diciamo un precursore della bestemmia. Ma soprattutto, esatto, è un come si dice? È un neofita. Campione nazionale. No, sto fissiando. È un campione nazionale di campione bestemmia. Nazionale. Bene. Pizza ne volete? Ne volete pizza? Voi a casa? Sì, no, forse ne volete pizza? Vi passo Andrea. Ma vogliamo parlare delle proprietà curative della bestemmia? Ne vogliamo parlare? Sono state provate scientificamente. Cos'è? L'università del Massachusetts? Del Massachusetts. Dell'Ohio. L'altra volta non andiamo alla canzone, però Oxford University. Mi ricordo una puntata di Clandestino Cid che Ciccio Marino invece di dire Ohio disse L'Ohio. Quindi io vorrei una pasta aglio e olio. Aglio e olio. Io direi che Ciccio dice pure salciccia. Però mandiamo un pezzo dei Gem Boy. Guarda che tu sei un ospite e non hai non hai adito a parlare in merito. Non hai capacità decisionali qui. Non hai voce in paragrafo. Punto. Però ce l'ho in libro, perché io scrivo libri nel 900. Però possiamo chiederlo a un passante. Cosa volete da me? Ci canti la canzone, dai, no, ti prego. Dai, allora abbiamo qua Ornella Vannoia. Ornella Vansoia. Sarà bello, bellissimo e travolgente poterti vivere totalmente. Ancora? Forte, fortissimo, fortemente. Sbatterti addosso. Non lo posso dire. Un grazie a Ciccio Pupo. Tutto questo era solo frutto della vostra immaginazione, ragazzi. Solo frutto della vostra immaginazione. Frutto dell'amore, questo. E la banana. Esatto. Perché a noi ci piace, insomma, giochiare con queste cose, no? Sì. Peppo, ma manne sto pezzo di Gem Boy, voglio dire, uno, dai. Parliamoci, sei Peppo. Vi dico no. E sì, va bene, le somiglia un po', ma che non è lei, ora ve lo dimostrerò. Le chiedo quanto vuol per trombare, mi dice cosa ci fai qui, non dovresti essere a casa a studiare. Just my imagination, just my imagination, just my imagination. Non è lei. Just my imagination, just my imagination, just my imagination. Vi dico no. imagination, è tua sorella. Just my imagination, è tua sorella. Just my imagination, vi dico no. Mi piacciono le sbarbine, non posso farci niente. Mi piacciono le sbarbine, mi sento deficiente. Yeah. Lo so che non conviene. Mi piacciono le sbarbine, ma poi chi si trattiene? Puntata pilota, qualcuno ci dice dalla regia che mancano 10 secondi, però siamo già ritornate in onda, no? Sì, siamo in onda. Sì, siamo tornate in onda. Siamo sulla cresta dell'onda. Ehi. Ma vogliamo insomma concedere un momento ai saluti, perché per le persone che ci stanno insomma seguendo e ci stanno dando il loro carole. In questa prima puntata, vero Antonio? Decisamente. Allora salutiamo Francesca Fortino che ci sta ascoltando e poi salutiamo Appetito che ci pone un quesito logico. Allora, praticamente dice: ascoltatemi ascoltatori, ci sono tre porte, dietro una c'è un'automobile, brum, brum. Dietro le altre due pecore. Tu scegli una porta, una, ma non viene aperta. Una delle porte con la pecora viene aperta, restano due porte chiuse. Puoi decidere se tenere la porta scelta o cambiarla con l'altra. Qual è la probabilità di vincere? Peti, ma che cazzo? Io sono rimasta, ci Io sono una risposta. Rifiuto e vado avanti. E il dottore che dice? Per me è la cipolla. La ciotia. Sì, è la ciotia. Carissimo Petitto, ti vogliamo bene. Grazie. Però ora Petitto, dobbiamo passare ad una notizia veramente sconvolgente. Seria. Serissima. Ma proprio camanculi. Ovviamente cani. Tutti quanti voi sapete che la legge elettorale a cui facevo riferimento fino a qualche tempo fa, cioè il Porcellum. Che bene. Porcellum? È stato dichiarato incostituzionale. Ah. Raga, ah, costituzionale, cosa seria. So cazzi, però da quanto ci giunge da Roma, anche la Costituzione della Repubblica Italiana è incostituzionale. Yeah, e ma come la mettiamo? E ma come la mettiamo? È ricorsiva. La mettiamo male. Malissimo. A metaglio la mettiamo. A metaglio. E dove la posizioniamo, visto che la mettiamo da qualche parte? E vabbè, dove la posizioniamo poi ci pensiamo. Però c'è da dire una cosa: se la Costituzione è incostituzionale, è una cosa incostituzionale, incostituzionale due volte, forse è costituzionale alla fine, o no? È come la minoranza della minoranza che diventa maggioranza. Sto mangiando la pizza, È come peppone che si peppone da solo. Due Pepsi più due Pepsi fanno un pepsone. Fanno un peppone. Potevate anche piangere, però era uguale. Perché? E poi. Ma cosa vuol dire tu che studi lettere, Flavia? Cioè, filosofia. Il GAMS. O GAM. So. Che vuol dire rendere incostituzionale una cosa? Allora, se è costituzionale, si riferisce alla Costituzione. Come fa la Costituzione a non essere riferita a se stessa in modo pertinente? Mi chiedo. Presidente, si riprenda, presidente. Lo stiamo perdendo. Moriremo tutti. Allora, questa è. Moriremo tutti. Allora, vogliamo spiegare ai nostri amici ascoltatori che cos'è questo mantra che recitiamo? Non lo sappiamo, io lo so, questa è esperta di questa situazione è Marina, ce lo vorresti spiegare, magari ingoiando, deglutendo per bene il boccone, vuoi che ti aiuto, ti faccio la mossa di Amsic. Chi? Volete sapere da dove deriva questo jingle? Certo. Che io praticamente recito proprio a dire basta, cioè. Basta, sì. Allora, se studi un qualcosa tipo verifiche, sifonamento, progettazioni, scienza delle costruzioni, io sempre, a filosofia. A un sempre. Certo punto, quando alzi la testa dal foglio, dici minchia, voglio morire. E poi da lì dici, ma perché devo morire solo io? Perché? È vero. E allora è come rendere comune il ma tuo sentimento. Ma poi ti senti meglio o peggio? No, ti senti una merda lo stesso, però vabbè, ok. Vabbè. Attraverso il pensiero di quale filosofo a filosofia risolvete strutture iperstatiche? Questa è una cosa che ci potrebbe molto aiutare. Le strutture iperstatiche stanno nell'iperuranio? E le strutture labili? Perché se sì, forse coso? Platone. Ma siccome abbiamo studiato, ho studiato tutto il pomeriggio queste cose, vogliamo mandare il prossimo pezzo? Sì, mandiamo il prossimo pezzo. Aspetta, in scaletta che c'è scritto? Mi hanno proprio rotta il cazzo di questo stato sociale. Rotto il cazzo di scienza delle costruzioni, questo non lo dice lo stato sociale, però lo dico io. Mi sono rotto stato il cazzo di studiare costruzioni, che studi? Costruzione. Mi sono rotto il cazzo. Ecco, quanto ignorante. Senza impegno. Stiamo insieme. Pesciatore. Godetevi il pezzo. Ma vediamoci in compagnia. Mi sono rotto il cazzo dei codardi. Con l'amore degli altri. Mi sono rotto il cazzo perché poi non si dorme più. Si sta svegli finché non muore la speranza. Maledetta stronza che non muore mai. Mentre io vorrei dormire. Mi sono rotto il cazzo di questa città. Degli aperitivi a 10 euro e clima di terrore a gratis. Dei giovani di sinistra rivisti bugiardi senza lode. Gente che in una gara di idiozia riuscirebbe ad arrivare secondo. Mi sono rotto il cazzo di quelli che vogliono andare un anno all'estero, ma prima 3 mesi da cameriere, così guadagno qualche soldo. Svegliati stronzo che sono 30 anni che mamma ti mantiene, e le dispiace pure che vai a fare il cameriere. Mi sono rotto il cazzo delle signorine che vogliono fare un sacco di cose, ma non ne sono in grado e se ne accorgono tardi. E allora 800 euro per la reflex, 200 per yoga, 300 per i peli del culo e 600 d'affitto. Per emanciparsi, mi sono rotto il cazzo della puzza di piscio nelle zone industriali, della puzza di industria, dei giardini pubblici, di tutti a lavoro in auto, una persona per auto, per finanziare meglio lei. Mi sono rotto il cazzo della critica musicale. Non siete Lester Banks, non siete Carlo Emilio Gadda, si fa fatica a capire cosa scrivete, bontà di Dio. Avete dei gusti di merda, ci avete rotto il cazzo. Etichette indipendenti, con 400 euro ti registro il disco in casa, suona bene, lo metti su Vimeo, fai girare la voce. Tra un anno a Coachella e tra 2 anni a fare il benzinaio. So che se vince la sinistra vince la droga, e mai che mi invitino a un festino. Mi sono rotto il cazzo del più grande partito riformista d'Europa, del facciamo quadrato nel grande centro, dei girotondi, del partito dell'amore, del governo ombra, di chi si difende dai processi e non nei processi, dei militari nei giardini pubblici a far la guardia a chi pisce il cane. Mi sono rotto il cazzo della sicurezza come fiera della forca e del fascino della divisa. Sarebbe bello bruciassero meno fabbriche, crollassero meno scuole e scippassero più vecchiette. Mi sono rotto il cazzo, c'è la crisi, c'è la crisi. Da domani acquisto solo caccia bombardieri. È un po' di tempo ormai che vendiamo solo sangue e compriamo solo merda. Mi sono rotto il cazzo che bisogna essere lavoratori flessibili, come il gasolano in tournée, ma molto più sorridenti. Di fascisti col culto del corpo che diventano campioni di greco-romano e poi fanno gli agguati ai ragazzini di notte. In 5 contro 1. Mi sono rotto il cazzo che non sono d'accordo con te, ma morirei affinché tu possa dire la tua stronzata. Che poi i nazisti sono giovani che amano la politica, i comunisti prendono modello Cristo mentre i preti contestualizzano bestemmie, e nella guerra per la pace vince sempre il voto moderato. Fate una cosa bella, ma bella davvero. La prossima volta che dite una stronzata, ammazzatevi da soli. Conosco fin troppo bene, ho ancora tutta la vita davanti. Che cazzo faccio di qui fino alla pensione, che poi mica me la danno e comunque non avevo le carte. Mi sono rotto il cazzo anche di te, che per fortuna non ti conosco e forse sei la speranza. Giuro che se ti incontro, giuro che se ti incontro finisce male. Bene, bene, bene, bene. E vai, adesso dopo esserci rotto il cazzo, anche se non possiamo non fisicamente, fisiologicamente. E già, l'ho detto tutto il tempo la canzone. La canzone lo può dire. Volevamo fare un grossissimo, grossissimo saluto. Ah. Saluto, saluto. Ciao. A quello sbarbatello di Petruzzu il Pessimo. Petruzzu Pietro Gagliardi. Che schifo, che schifo. Che brutta persona. Schifo persona, schifo persona. E posso fare pure persona. I saluti. Petru, un posso bacione. Posso fare pure i saluti. E guarisci presto. Presto. Nella brum brum della puntata pilo. Ah, vuoi fare un saluto? Sì, volevo sì. salutare, però non lo so se mi sta ascoltando. Però, Gesù prima di tutto ci ascolta sempre. Poi volevo salutare la mia coinquilina Shari, che ci sta ascoltando. Salutate Shari. Ciao Shari. Ciao Shari. Ecco. Ciao Shari. Molto probabilmente Melina, tutta a casa di Nolfi, ma non i proprietari di casa. Ciao Meli. Ciao a tutti tranne ai proprietari di casa di Nolfi. Confermo. E poi i miei genitori. Ciao genitori. Ciao genitori di Flavia. Io non bestemmio. Ciao ciao. Ciao Lisotti. E niente, poi ciao a Ono Sendai, a Roku che non ci sta ascoltando ma sentirà il podcast. Ciao podcast. Bravo, bravo, bravo. Bravo Roku. Ciao GC. Bravo Roku. Ciao Cicillo. Ma che Mari, ne dite di... Mari, c'è Cicillo. È Mari, morto. C'è Cicillo. Oh, mi dispiace. Com'è successo? Adesso c'è la signora Pino. È tanto una brava persona. Chi ne è sta signora Pino? La signora Pino. La signora Pino è la signora che ha parlato prima. La signora che sa esattamente dove Peppone tiene nascosto San Rocco. Ma San Rocco, San Rocco, San Rocco mi sa di sti petto di sott'olio. Di cosa ti sa te? Sott'olio, sott'olio, ma sotto spirito. A me taglio! È santo. Pare che sono santo. Ma... Prega, a proposito perché... di sott'oli, come ben noi sappiamo, le nonne sono esperte nel fare sott'oli. Cioè, voglio vedere dire. Come ci arrivi proprio. Le nonne. E qui introduciamo la nostra bellissima rubrica, i rimedi della nonna. Ecco Flavia, hai qualche rimedio della nonna da suggerirci? Rimedio della nonna. Allora, la nonna mia, ogni volta che facevo un compito che andava bene, che andava male, che non andava, come rimedio mi facevo mangiare un sacco di cose. E io sono diventata grassa. Sei diventata grande. Grande, non grande. Cerchiamo di dare un... Che ne devi sapere tu che sei alta un metro e poco più. Ai bambini che ci stanno ascoltando. Bambini, mi raccomando, mangiate tutto tanto. Quello che vi dà la nonna. Tutto. Anche se sono le 5 del pomeriggio tutto. E vi vuole fare una frittata. Fritta nello strutto. Frittate con la Nutella. Frittata con la Nutella, buona. Ma passiamo con il prossimo consiglio della nonna. Alla fine spulciando un pochino sui forum, diciamo tutto al femminile eccetera eccetera. Quelle cose pessime pochino, sì, pessime, pessimerrime. Come Petruzzo. Abbiamo un sottofondo musicale. Saluta Petruzzo, che lo schifo di persone. Salutiamo anche Tarlo. Bene. Allora sabato c'è Tarlo, scusami, non ti ho risposto su Facebook, non ti posso Tarlo. Ospitare. Comunque ma Tarlo, poniamo un quesito. Tarlo 2.0, anzi poniamo un sondaggio, il Tarlo 2.0, Tarlo de Roma, okay. A voi lo accettate? Per dire che lo accettate dite Eusa, per dire che non vi piace tanto dite Key Blues. Marie, tu lo accetti? Per dire forse dice un mini frica. E tu lo accetti? Facimurato. Flaviuccia, tu lo accetti? Un culicani. Peppone, tu lo accetti? Io sì, l'ho speso sul divano. Lo devo accettare. Però Tarlo, la prima parola in romano. Pisciatur, lo tolgo di casa. Pisciatore. Tarlo, ti ospiterei io, ma sono ospite in casa mia, purtroppo. Tarlo, ti ospiteremmo tutti, ma in realtà ti ospiterà solo Peppone. Peppone è un artista ad ospitare gli artisti e quindi è anche un artista nell'ospitare Tarlo. A Tarlo. E soprattutto Peppone vive in una valle verde. Una valle verde. A Tiburtina. Però non andate nell'orto perché puzza. Ci sono i gatti. E Peppone ci fa la cacca. E a proposito dell'orto che puzza, a proposito che quando cammini puoi pestare qualcosa e poi ti puzzano le scarpe. A proposito di puzza di scarpe, Marina, cosa vuoi dire? Allora, i consigli della nonna nonna. Cioè, praticamente, se tu vai da tua nonna e gli chiedi: nonna, le mie scarpe puzzano, quando le metto? Quando le metto? Non si è capito bene, Maria. Cosa? Allora, se tu vai da tua nonna, Peppone, e gli dici: nonna, le mie scarpe puzzano, come devo fare per non farle puzzare? Lei sicuramente ti risponde: tieni pulite le scarpe con prodotti specifici per calzature. Per poi puoi utilizzare un deodorante igienizzante per calzature che... Devo tenere il microfono dritto, affanculo a me, a 90. A 90, Peppone? A 90. Si sporca. Allora, Peppone, tua nonna semplicemente ti risponde che devi tenere le tue scarpe pulite utilizzando dei deodoranti specifici per le calzature che puoi trovare in farmacia. Tipo, puoi mettere anche del bicarbonato, tipo lasciare... Di sodio. E tu, Andrea, cosa faresti? Sai cos'altro ci puoi fare col bicarbonato? Un fortissimo, potentissimo scrub per la cellulite. Un fortissimo scrub fatto con i fondi di caffè. Utilissimo riciclare i fondi di caffè, ragazzi. No, davvero, non sto scherzando. È inutile che mi guardi così. C'è un passante che mi guarda allibito. C'è un passante? Una passante. Facciamo l'intervista al passante. L'intervista al passante. Il passante è passato. Ecco, bravissimo. Passato usando, passato il passante. Poi un altro rimedio della nonna, anzi del nonno, col bicarbonato. La coppa del nonno. Con la coppa del nonno, col bicarbonato, è il dentifricio. Se tu metti un dentifricio più bicarbonato, più limone, tutto. Anzi, se tu metti, non un dentifricio, se tu metti uno spazzolino più dentifricio, più limone, e li frulli insieme. Attenzione. E io che cazzo mi mangio? Rewind. Allora, se tu metti uno spazzolino più un bicarbonato più limone. Applausi per favore, ci sono riuscita. Brava! Risolvi il problema dei denti. Otterrai un buonissimo dentifricio. La cacca. O un corrosore di denti, quindi risolverai per sempre il problema dei denti. Lo puoi usare pure con i carabinieri e la polizia, perché è un corruttore. È un corruttore. È un corruttore. Un corruttore. È un colluttorio. Allora, da laggiù c'è un passante che passa a distanza. Ci stiamo ascoltando da soli praticamente. C'è un passante che passa a distanza, che suggerisce a distanza che ci vuole proporre un rimedio per la nonna. Passante che passa a distanza. Un rimedio non della nonna, un rimedio per la nonna. Tua nonna a distanza, che rimedi ti fa? Aspettate che... Intanto mentre che se unisci passante... se unisci limone più aceto è un ottimo brillantante. Per far brillare i vostri occhi, signori, per far brillantare il vostro corredo inesistente. Brillantante. Ma io che cazzo. Vogliamo parlare anche del problema dei corredi, ragazzi. C'è crisi e le nostre nonne non hanno la possibilità di farci il corredo. Ma io non mi sposo. Antonietta, vuoi esprimere una tua opinione in merito? Io penso che per risolvere il problema corredo, ovvero sì, se tu non vuoi il corredo, non compri il baule per il corredo. Posso dire una cosa? Cosa dice Michele Maresca da Facebook? Perché abbiamo anche degli ascoltatori che ci danno dei consigli. Il nostro Michele Maresca dice che è un pollo. Fate prima a prendere dei brioschi. Cosa vuol dire? Il brioschi è il digestivo. Ma forse voleva dire brioche o brioschi. Perché i brioschi li prendi dopo che mangi le brioche, o no? Certo. Ma Michele secondo me sarà d'accordo ad ascoltare il prossimo pezzo. Sì, se no, troppi consigli, no, ma voi la sapete da dove ci sente Michele? Dalla Sicilia. Addirittura. Dalla ridente Sicilia. Bene, dopo aver salutato Michele Cucuzza, questa situazione solo Kevin Spacey la può risolvere. Solo Kevin Spacey. Solo Kevin Spacey. Solo Kevin Spacey. We'll be right back. Bruce Willis. Sapete se un film è in porto? The Others, sono loro gli spettri. Beh, dopo il sesto senso cosa cazzo ti aspetti? Hai presente Kevin Spacey? Sì. Selene è l'unica sensosa nei soliti sospetti. Serial killer di Seven, Kevin Spacey. Cattivo di Superman, Kevin Spacey. Perfetto criminale, Kevin Spacey. Ho capito, non c'è bisogno che mi stressi. Time Academy Award winner Kevin Spacey is coming back to the big screen this week. Oh, and the winner is Kevin Spacey. Kevin Spacey, Kevin Spacey. L'enigmista cadavere della prima scena. Nel codice da Vinci, il Graal e la Maddalena. Blair Witch Project non è una storia vera. Decidi tu se ne vale la pena. Io e Marley, alla fine il cane muore. Nel film a 5. Come cinema con cinema rettore. In profondo rosso l'assassino e la madre. In Psycho Norman è l'assassino della madre. Se ti interessa il genere ti basterà guardare Porta a Porta. Primo canale. In Sid e Nancy, Sid uccide Nancy. Sid e Jesse, sempre lì nei cessi. Il colonnello di American Beauty è gay, sì. Ed uccide Kevin Spacey. Kevin Spacey und Jeff Goldblum im Blitzlichtgewitter. Senti disco, skip e vai oltre. Sentiti sto disco, skip e vai oltre. Non hai visto Star Wars? Stai forte. Darth Vader è il padre di Luke Skywalker. Il mago di prestigio è un gemello. The Game non è un tranello, è un gioco del fratello. La moglie del soldato ha il pisello. E Bruce Willis muore in Armageddon. Passione di Cristo, pensione di Gibson. È un robot, quello messo sul crocifisso. Ti disturba? Beh, a me disturba che la trama ti disturbi sia la stessa di Hitchcock. Il curioso caso di Benjamin Button. The winner is Kevin Spacey. This is Kevin Spacey's second Academy Award. He won an Oscar in 1995 for supporting role in The Usual Suspects. Kevin Spacey. Dopodiché, penso che non ne sentirete mai più parlare. Bene, bene. E dopo un po' di cazzeggio e, insomma, pura giotia, dobbiamo darvi una notizia di pura giotia, però c'è reale. Prima, c'è il jingle. Momento serietà. Momento serietà. Momento serietà. Momento serietà. Basta. Bene. Vogliamo, in questa nostra rubrica seria, mm-hmm. vogliamo parlarvi della metro. La metro Cosenza un Unica. Metro, cioè Andrea, un metro. Un metro. Che cos'è un metro? Un metro è una lastra di Andrea conservata. Un metro è poco, ma è tanto. Se sei una formica è tanto. Se sei un elefante è poco. Dipende, quindi è un tarlo. Un tarlo. Ciao, bello! È un bug nel sistema. Sì, come sei sì in questo caso a Cosenza il bug è enorme, no? Perché enorme. Vogliono costruire questa metro leggera che collega la città di Cosenza all'università. Cazzo, le grandi opere. Sì, è una delle grandi opere. Era una metro pesante? Erano cazzi. Lo sono cazzi. E seri tu così? Ma quindi Maria, dimmi un po' sta cosa, come funziona? Niente, c'è l'idea di questi progetti tanto agoniati da un bel po' di anni. Tanti sordini in giro, hai capito perché ci sono questi progetti. Si vuole collegare comunque la città di Cosenza all'università, visto che il sistema trasporti qua a Cosenza fa letteralmente schifo. A medaglio! Assolutamente schifo. Fa cagare. Sì. E niente, è stato indetto il bando per dei ciance. Il bando d'appalto. Il bando della matassa. Hanno indetto, chi ha indetto il bando? Era un bandito. Un banditore. E mangiava in un tavolo imbandito. Infatti il bando era un bando d'asta. Belli milioni, fondi europei. pisciato. Pisciato. Pisciato. Pisciato. Pisciato. Sì, infatti, tipo il 28 ottobre erano, diciamo, il termine ultimo per presentare l'appalto. Noi. No, noi non ci siamo presentati, ci però presentare. Potevamo presentarci. Emma. Non la conosco, Emma. Tu la conosci? Ma chi è Emma? Perché non ce l'hanno presentata, perciò non la conosciamo. Però c'è stato questo bando e qui. Ma quindi si farà? Beh, diciamo che a noi questa cosa, cioè almeno personalmente a me non piace molto, perché comunque diciamo alle parvenze di Ponte sullo Stretto, alle parvenze di grande opera tipo TAV. Ma è che qua i ponti gli piacciono. Che non servono città. Un cazzo, cioè alla fine devono spendere sti soldi, però potrebbero spenderli in maniera più intelligente. Potenziando comunque il servizio degli autobus, rendendolo meno costoso per gli studenti che, mannaia la miseria, salire e scendere dall'università non munza mai. Avessimo troppe lezioni durante una giornata, se ne potrebbero andare anche 4 euro al giorno come se niente fosse. Se ti va bene. E niente, solo che c'è una notizia fresca fresca, nel senso non so se è di ieri o di qualche giorno fa, un lapis, è di domani, una notizia che è di domani. Niente, alla fine nessuno si è presentato a fare il bando, non c'era stato nessuno che partecipava all'appalto. Quindi c'è la minaccia che l'Unione Europea si ritira i fondi. E si incazza pure. E baffanculo. Arugu. E quindi? E da questo giustifichiamo la protesta dei forconi, che giustamente, volendo la pace nel mondo, vuole un pane diviso un miliardo di africani e bambini anche. Volevano anche la ridistribuzione dei fondi europei in maniera equa e solidale. Capito? Perché quei fondi. Però volevano la ridistribuzione dei fondi europei, però vabbè, se ne volevano uscire dall'Europa. Volevano i fondi, però fuori dall'Europa. Non ho capito bene. Com'è il fatto? E niente, mo sti fondi, magari succede che l'Unione prima. Confusi i fondi. Perfetto, perfetto. File e fondi. Quindi il loro prodotto fuso ritorna al mittente e vaffanculo a chi si è visto. Culo rotto e senza cirasi. Comunque. Ci potevamo presentare che ci prendevamo belli soldi. Sì, belli soldi, belli soldi. Si parlava di 115 milioni. Che la miseria. Ma tu che ti volevi presentare, per caso sei architetto? No, perché io sono architetto. Io sono architetto. Io sono architetto, infatti sto cercando anche con la metropolitana leggera, che i romani non avevano assolutamente la metropolitana leggera, si muovevano in biga. Volevo appunto rendere la città più cool, più trendy. Più cool, più trendy. Cool e trendy. Scusi sindaco, ma adesso che è passata a Forza Italia, non crede che deve cambiare popolo di riferimento, cioè sostituire i romani con i galli? Guarda, non lo so, in realtà volevo passare ai daci. Ai daci, perché essendo costruiti in Corea, i daci comunque sono più economici. Sono più economici, Peppone. I daci. I daci per un Gina. No, Perugini no, Perugini non me lo nominate, vi prego. Non era una persona cool, non è il trendy, cool. Non è mai passato da UDC a Forza Italia. Che non schifo. È un trasformista. Non ha coerenza, non ha coerenza. Eclettico. Ma per questo ho sostituito i cerchi come decorazioni natalizie con pseudo rettangoli. Ma è inevitabile che il tempo è passato, adesso siamo nel 2014 e non va più di moda il cerchio, adesso va di moda il quadrato, va di moda lo psichedelico. Anche voi ragazze mi sembrate un po' cerchiate, non siete cool, non siete trendy. Sindaco, ma lei non è che ha sostituito i cerchi con i quadrati perché è nato tondo e vuole morire quadrato, forse? Non lo so, non si può quadrare il cerchio e non si può cercare il quadrato. Però lei che è un architetto lo potrebbe pure fare. Ma perché io sono architetto. Questa è una cosa che voglio rimarcare. Mi scusi, ma i lavori in Piazza Fera. I lavori in Piazza Pera erano una questione per... Il sindaco ha cambiato voce. Vuole fare che il 1° maggio si festeggia a Piazza Pera anziché Piazza San Giovanni. Facciamo una fiera. No, io non sono. Sì, può darsi, sono la segretaria del sindaco, perché il sindaco è un attimo uscito perché l'hanno chiamato un architetto famoso della Cina del Sud. E praticamente il sindaco voleva aumentare il lavoro a Cosenza, no? E siccome ci sono le fosse, no? Ha avuto una proposta, da una ditta privata chiamata Pulp Piccio. Yeah. E l'idea era quella, appunto, di prendere delle persone, no? E di, e pure che c'erano le fosse, no? Di usarle per togliere le macchine dalle fosse. Però io sto aspettando il sindaco che mi porta una canzone. Sta arrivando la canzone. Il che sindaco non arriva, ma la canzone gliela offriamo noi, diciotia dall'etere. Sini, aspettate. Ogni, diciamo, trasmissione radiofonica che webofonica che si rispetti deve innanzitutto diffondere un movimento. Il nostro movimento è il movimento in busta. È il movimento in busta. Noi difendiamo le buste, no? Difendiamo le buste e vaffanculo a tutto il resto, perché noi le buste le amiamo e questo governo ce le dà fatte male, che si rovinano, che si rompono e si sprugnano e si sfriculiano. Sfriculiano, tu ti compri una cosa e ti scasta. Cioè, ma noi che dici? Che dici? Che sai? Tu non capisci? Iscriviti al nostro movimento. Io sono per il movimento in sporta. No, tu devi seguire noi e il nostro leader Ciccio Cicala. Ciccio Cicala. Vogliamo fare una lista di prescrizione delle commesse del Despar? Sì, innanzitutto no alle commesse del Despar. Con le buste che si rompono. Con le buste che si rompono. Posso fare adesso una... Poi torniamo al momento in busta, perché c'è un saluto importante da fare a un amico che ci sente dalla Spagna. Why you? From Spain. From Spain. Ma in Spagna ce l'avete le buste? Sì, ce le ha. Non lo so, Albe, ce le avete le buste in Spagna? Allora, un grande saluto ad Alberto dalla Spagna. Dice Peppone che ti saluta e che ti sostituirà prestissimo. Alberto! Grande, vabbè. E torniamo al movimento in busta. Spieghiamo ai nostri radioascoltatori di che si tratta, Marie. No. Noi ci teniamo a difendere le buste. Eh sì, perché una busta non può essere ridotta a mero contenitore di altri contenitori, a sua volta busta. È come fosse una busta della busta della busta e della busta. Una no? Busta è per sempre, the beers, the boost. The boost. The boost. The boost, boost. The best. Salutiamo the gli amici boost, di Boost al Sì. Non disputandum est. Sì, busta agli acta est, amici. Cioè, una busta è una garanzia. La busta è tratta. La busta è tratta. E poi tre bustine sul comò. Facevano tre bustine sul comò, fanno più di un bar di Spagna, no? È giusto. Soprattutto, se vi interessa saperne di più del nostro movimento in busta, vi chiediamo di appoggiarlo, anche se noi non ve lo sappiamo spiegare al momento perché ci avete colto a busta vuota. Vi passo Flavia, ciao. No, volevo solo dare un aggiornamento ai nostri radioascoltatori, che dice Alberto che in Spagna le buste ci sono e, attenzione, parlano uno spagnolo sensuale. Lo dice Alberto. Quindi non lo so. Cosa you avrà voluto dire? E non lo so, Albe. Ma mettono le scarpe rosse, tipo rossetto rosso, minigonna, co? Vestono Prada. Sessiste, perché sono sessiste. E noi siamo contro le buste sessiste. Vaffanculo, Spagna. Why you, che qua creiamo condizioni per uno scontro Spagna-Italia brutto. Crisi di governo dovuta alle buste. Ci tagliano internet. Ci tagliano internet. Cazzarò. Com'è la Spagna, Albe? Che poi ci arriva a Trucadespar, dice Alberto su Facebook. Che poi viene Peppone e ti del cambio. Ciao Albe, ci diamo il cambio ad aprile. Ad aprile, quindi uno torna, l'altro parte, ci togliamo Peppone dalle palle. Io vado all'estate, fuori dalle che bello. Palle, fuori dalle palle, fuori dalle palle. Ok, ciao Pe. Quindi joinate il nostro movimento in busta, se anche voi credete che le buste debbano essere più forti. Aruculu share the busta. Rupulu share the busta. Insomma, la prossima settimana vi proporremo un movimento nuovo. Sì, noi diamo spazio ai movimenti, soprattutto se diciamo questi movimenti sono creati dal basso, da Ciccio Cicala. Cicala forever. Dopo i grilli ci stanno le cicale. E Ciccio Peppe. Se volete poi proporre un vostro movimento. I cicalini voglio proporre io come movimento. Facciamo i movimenti. Cicaleggi. Beppe Cicala è il leader. I cicalini sono le soubrette di Eder Parisi, ricordiamolo. Le cicale. Signora Pina, cosa ne pensa lei? Signora Pina. E dai. Cosa ne pensa la signora Pina del movimento? Ma la signora Pina l'ha presa la licenza media. La licenza Pina. Ha preso la licenza medica, secondo me, la signora Pina. Licenza medica, quindi medica, sì. Dottore, chiami un dottore. Esatto. Certo. Si è licenziato. Sono licenziato. Bene, bene. Se non abbiamo niente da aggiungere al movimento in busta. Ecco. Diciamo che tra il movimento in busta e la questione della metropolitana leggera siamo state abbastanza politicamente scorrette. Quindi volevamo lanciare la nostra nuova rubrica, la nostra prima rubrica, politicamente scorretti. Ma e come primo passo per la nostra rubrica politicamente scorretta sputtaniamo una nostra web radio Flavia, insomma Flavia. E niente. Signori Lisotti, Flavia si droga. Faccio outing. Si droga male. Male. Si droga male. Signora Pina, venga lei a dirlo alla No, radio. scherziamo, è che dobbiamo appoggiare pure il pubblico qui in aula. No, siamo alla Spagna. Alla Spagna, sì. Alla Grecia, ragazzi. Oggi ho scoperto che ci sono Erasmus greci. Non me lo aspettavo. Io pensavo fossero spagnoli, quelli parlavano. Sembravano spagnoli seriamente. Invece no, erano greci. Me l'hanno dovuto dire, però. Mi hanno detto Grechi. Ah, sono greci. Ma i greci. Sono yogurt. I grecanichi di Greca sono fricchettoni o no? No, assolutamente, non sono fricchettoni. Sono dorati? Sì, sì, sono dorati. Sono splendenti come l'alba. ma abbiamo la signora Pina che vuole fare un saluto agli amici di Badolato. E buonasera a tutti, buonasera. A chi è che devo salutare? Scusa. La nostra nuova mascotte. Devi cantare un brano di Janis Joplin. Vabbè, chi t'ha visto? Signora Pina. Scusate. Sono un poco sfasata con gli ormoni. Adesso ci canterà esplorando il corpo umano. No, c'è un abbassamento di voce, capito? Ma quindi, insomma, Peppe, esplorando il corpo. Ecco, nella rubrica politicamente scorretto dobbiamo dire al carissimo qui. Siamo proprio fatti così. Grazie Peppone. Ecco, dobbiamo dire un carissimo e coloroso vaffanculo a Fiabeschi. Che ha deciso di, diciamo, proiettarsi. Proprio Fiabeschi. Fiabeschi di merda. Si proietta. Ma Fiabeschi sono tante favole. No, sono i personaggi delle favole e i cattivi delle favole che ci raccontano la loro favola, le fiabe. Di Esopo. Esopo o Esopo, questo è il problema. Ma intervistiamo un passante. Passante, tu che ci dici? Parla in falsetto, passante. Peppo, pezzo. Blues. Ok, siccome questo è un programma ciuoto, abbiamo deciso noi ciote di dare la voce anche ai passanti. Ai passanti gioti. Vabbè, Fiabeschi, potevi proiettare il tuo film un'altra volta, cioè proprio stasera che c'era la nostra trasmissione, cioè. E porco Giuda. Porco chi? Giuda. Ah. Così. Ballerino. Ehi. Ma ballerino discoteca. Cosa non stavi ascoltando? A te. Passare rossa con la spina. Nel silenzio della notte ora la tua bocca mi è vicina. No, per Dio, non farlo tornare. Dillo tu al mare. Non spezzare questa catena. Io non la voglio spezzare. Io non la voglio spezzare. Bene, bene. Qui abbiamo persone con problemi ormonali non indifferenti. Alti livelli. Diciamo che la brum brum pilota, la trasmissione pilota è sì, ciota. Lascia ai... Ecco. Abbiamo una traccia audio. Il carissimo passante non si è sentito il suono, ma ha lasciato l'odore. Purtroppo sì. Sono passanti che lasciano la scia. Che sì. Schifo, aggiungerei. Per ricordarla ai posteri. Che schifo. Salutiamo Simona che ci sta ascoltando. Ciao Simo. Ciao. Mandiamo un pezzo. Sì, siccome non abbiamo più niente da dire, direi e nenda l'uraia. E nenda l'uraia. E nenda l'uraia. E nenda l'uraia. E nenda l'uraia. Vai col pezzo, per favore. Va, vai col pezzo. E niente all'uraia, e niente all'uraia, e niente all'uraia, sta finendo, e niente all'uraia, e niente all'uraia, e niente all'uraia. Bella sta canzone, bella, bella. Hai chiuso il microfono, Andrea? Giuro. Aggiutaggine. No, dicevamo che è proprio bella questa canzone dei Depeche Mode, molto anni 80, molto al modo dei pesci. I pesci molli. Oddio, sì, si sono un po' intristiti dei pesci ultimamente, però noi gli vogliamo bene lo stesso. E quindi adesso dovremo far partire un'altra bellissima rubrica che sono certa farà impazzire i nostri giotto ascoltatori. E la introduce Marina perché lei è l'esperta. Sì, preparate il vostro PostePay, il vostro PayPal, perché adesso PayPal. Questi amici qui in aula fanno un bordello assurdo, per favore, gemelli. Ci vediamo doppio. Ci vediamo doppio. Faremo un'intervista doppia. Faremo un'intervista doppia, anticipiamo, sì. No, no. Come qualsiasi trasmissione che si rispetti, questo è il momento delle promozioni. Ma perché questa si rispetta? Si presuppone che si rispetti. Eh sì, no, venimo E bisbambamulo qua. Oh, se non manifestato. Mi pare giusto, mi pare giusto. È giusto. Però a proposito di mi pare giusto, secondo voi, quesito, sondaggini, chi è che dice sempre mi pare giusto? Qualcuno che si chiama Giusto di cognome, Giusto di nome, Giustino. E pare di cognome. Pare, Giustino pare. Chi è? Pare Giustino. Eh sì, pare Giustino. Eh? Sì, si può fare, si può fare. Sì. All'appello, pare Giustino, all'appello. Pare, signor pare Giustino, ci vuole fare una sua dichiarazione? Smarrimento nell'aria, smarrimento. Presidente, presidente, mi sente presidente? Presidente? Meno male che il cazzo c'è. Come siamo scurrili. Bene, bene. Noi siamo, non siamo femministe, ma siamo un movimento donna. Donna. Donna. Con la gonna. Con la gonna. Donna. Cosa dica? Io dica. Proporrei anche una nuova rubrica dalla prossima puntata in poi. Dica. Di leggere un post della bacheca di Cicillo a settimana. Sì, perché noi qui in aula, perché in aula P2 occupata. In aula P2 occupata. Ponte Pietro Bucci, Università della Calabria, cubo 40C. Sì, ci siamo. Aula libera P2. Aula libera P2 occupata. Bene, abbiamo fatto un face wall. Siccome c'è questo nostro amico che non vuole fare Facebook, che è motivi... l'alter ego della signora Pina. Sì. Pisciatora. Pisciatora. Abba, voglio le mie, ma tu hai un problema, tu stai un problema. Signora Pina, stiamo parlando signora di Pina, lei. Signora Pina, stiamo parlando di lei. Babbo, voglio un mio. Gli abbiamo fatto questa bacheca di face wall sul muro. Sul muro. Sì, gli abbiamo fatto questa bellissima bacheca in cui lui può liberamente condividere senza alcuna coercizione. No, nessuno va e gli appiccica i post mai lì sul proprio. Muro. No. Mai. Lui pubblica foto, poi... Però possiamo chiedere alla signora Pina se lui lei si sente coercesa. Se soffre di costipazione mattutina. Di costituzione mattutina. Sana e robusta costituzione. Avessi vita in successo chi esce io. Sana e robusta, proprio sana e robusta. Non scadiamo nel trash con questa nostra cosa, nel amici. Trash. Allora, siccome trash ci teniamo... Siccome ci teniamo a trasmettere nella radio ciò che avviene in questa caspita di aula qui. Meno qui. Bordello, amici. Voi capite che sono le 11:05. Questi sono i siti clandestini che ci vogliono boicottare facendo bordello. Prima la regia, poi c'è un altro clandestino che si è messo qua con una fisarmonica. Stiamo parlando di pantaloni e pantaloni che spionano il culo. Pisciatori, brutte persone. Niente, è arrivato il momento della nostra rubrica, no? I consigli per gli acquisti. Che schifo. Si avvicina Natale. Natale è a Milano. Natale è a Milano. Salutiamo Natale a Milano. Stanno arrivando con un elicottero i consigli per gli acquisti. Stanno arrivando con un elicottero. L'elicottero che arriva. La gaetanata. Bene. Possiamo offrire per conto terzi. Tre conti. Un carico di 30 hard disk di 75 tera. Tera. Al modico costo di 10 euro l'uno. Cada uno. E se non cade? E se cade l'hard disk? Cosa? Se cade si rompe. Ne cade uno. E se ne cade uno ne restano 29. 35. No, ho detto 30. Vabbè. Ho avuto un lapsus. Un lapis. E riavviamo il caps. Lapis lazuli. Riavviamo il caps. Poi? Sì, riavviamo che, il caps. Che altro ci offre la ditta? La ditta offre... Ciao a tutti ragazzi. Ciao. Salutiamo gli amici che vanno a casa. Ciao Cesco. Ok. Ciao Cepu. Cepu. E poi l'altra offerta della giornata, quindi Mi raccomando, ogni regali natalizi si avvicina. Cosa passante? Tony Hart, Air Sculpture. Yeah. Offriamo una pila di bottiglie di acqua scadute. Sì. Scadute? Sì. Se sono scadute, non c'è pericolo che cadono. Scadute. Noi scadiamo pure. Infatti, dovevamo. Sì. Comunque, vorrei. C'è gente con le mani nei non capelli in quest'aula. Sì, vabbè, l'offerta è quest'acqua. Uh-huh. Quest'acqua. Uh-huh. A 20 euro lavati. Puliti, però. Puliti. Netti. Mi raccomando, non lordi. E non è detersivo, mi raccomando. E se sono riciclati? Detersivo perché inguina, assolutamente. E se sono riciclati, questi soldi vanno bene lo stesso? No, lì ti potrebbero condannare per riciclaggio. Sono puliti, però, non sono sporchi. Ecco, se è nel riciclaggio di denaro sporco. Qui c'è apologia. Sì, c'è un'apologia. Una tipologia. Una qualsiasi, una un'antologia. Un'antologia. Scempio, devasto e saccheggio. Eia! Ui Allah! Brava! Brava! Flavia, brava! Goppa e a me! Bravo! Poi dici che fa le trasmissioni! Brava! Fa mezz'ascia! Dai! Ecco. Vabbè. E che ne dite di far partire il pezzo? Pezzone! Un pezzaccio! Pezzone! Pezzino! Sì, dovrebbe essere la nostra sigla, ma quindi... È la fin sigla? La sigla finale? Andiamo ai titoli di coda, va? Titoli di coda. I titoli di coda della nostra rubrica. Questa canzone è meravigliosa. Assolutamente, è fantastica. Per gli amici del metallo, assolutamente consigliata, perché vendiamo batterie 1810. Scaricatela! I Nanowar! Scaricatela! Chiamate, mi raccomando, e ricordate finanziamenti a tasso zero. fino a 12 mesi, oppure con comode mini rate a 60 mesi con tasso agevolato. Avete capito bene? Mini rate per acquisti senza pensieri. Qua salutano una certa Carlotta. Giorgio Carlo. Chi è Carlotta? Ta lo Carlotta. Ma chi è Carlotta? Ma perché? Perché sì, perché Carlotta c'è un amore, Carlotta c'è, scusate. Ah, facciamo un saluto particolare Carlotta al cantante. È quella della diretta. Carlotta in diretta, ragazzi. Facciamo un saluto al cantante e gli dedichiamo un buonasera. Un saluto al cantante. Ciao cantante. Canta sempre, canta. Vabbè, canta insomma. Sempre, canta. E poi un microfono. E niente, vi volevamo salutare. Stiamo già salutando. Certo che stiamo salutando. Sono 2:40 che siamo in onda. Che cazzo. Ma facciamo il sondaggio a quelli che ci stanno ascoltando. Vi è piaciuto il programma? Sì, no, forse, Eusa e Key Blues? Potete rispondere direttamente sulla nostra pagina Facebook, Ciotia dall'Etere. Assolutamente. E quindi niente, vogliamo fare i saluti, vogliamo dire ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Addio, io volevo salutare il amici, mio proprietario addio di casa, il signor Vigiani, Vigiani, di 88 anni. Poi volevo salutare le mie coinquiline. Ciao coinquiline. Michela, Annalisa. Ciao. Poi volevo salutare a Marina. Volevo salutare a Marina. Ah, ma ci stiamo presentando Marina? Quelli. No, no, a Marina. Marina quella di Sibari. A Marina Mallo. A Marina Mallo. Marina di Sibari. In diretta da Sibari. La prossima volta possiamo organizzare un San Lucido, Marina. Un contatto con lei. Una skypata. Non ho capito. Possiamo organizzare una skypata. Una con Marina. Scusa, mica c'è la neve. Ma vedi che era Marina di Gioiosa, pure tu. della Chiana. La Chiana. Waiu, comunque, vogliamo dire ai nostri amici ascoltatori dove ci possono trovare, ascoltare, parlare di Fuori Onda Radio, amici? Così ci picchiano. Dove ci possono trovare? Al CIM, dicono, ma non è vero! Al cinema! Al CIM e non al CERT. Certamente al CERT, certamente. Non siamo gente di mare, non sappiamo surfare. Non è colpa della droga. Dicevamo, Marina, che non è la droga che ci guida. Non è la droga che ci guida, ma la puntata la pilota. La puntata pilota. A proposito, ci stiamo quasi dimenticando di premiare il pilota, vincitore della puntata pilota. Brum brum brum brum brum brum. Allora, il pilota vincitore della puntata pilota è quello che ha fatto la sgommata. È quello che ha fatto la sgommata. Un applauso. Che ci vuoi dire? Perfetto. Vuol dire che non hai saputo parlare di bocca, ma hai saputo parlare di culo. Allora, siamo... Currile, si chiama Deretano. Il pilito è stato gentilmente offerto da Bechifon. Chi ama, chiama. Chi ama, chiama. Io penso che... un sigillo proprio ci sgombererà. La prossima volta non saremo trash, anche perché la puntata pilota saremo fashion. La puntata pilota è andata bene. Ma scusate, siamo trash, fresh, cool e trendy. E trendy e glamour. Il sondaggine è questo. È questo del... Ah, se siamo stati glamour, fashion, trash. Glamour, no. Fashion. No? I sondaggini verranno, sì, come... Ah, vero, vero, vero. I sondaggini, i sondaggini verranno distribuiti nell'aula, come ci dice i sondaggi. Sì, breve, ben presto verranno distribuiti i nostri sondaggini in aula, a cui voi potrete rispondere, e la risposta più fantasiosa al sondaggine verrà premiata. Non sappiamo ancora con cosa, il premio è tutta una sorpresa. Quindi venite in aula P2 occupata, studiate con noi, divertitevi con noi e venite a compilare i nostri fantastici sondaggi. Ne abbiamo più di uno. Sì. Sì, sì. Vero? Sì, e soprattutto dite se vi piace il nostro programma più di Clandestino Cid, ovviamente, soprattutto. E siate social, socialeggiateci su Facebook. E su Facebook. Il podcast. Sì. Si scoprì che Peppone non aveva registrato. No, sì. Non hai registrato davvero? Peppone non ha registrato la nostra puntata, quindi fortunatamente... Sta registrando. Allora, ora passo ai saluti. Salutiamo il grandissimo Ono Sendai segue mentre sta squartando un porco per fare le salsicce a Flavia. Le salsicce a me. Salutiamo i nostri passanti. Sì. Non facciamo nomi, ma salutiamo Cicillo, Giovanni, Ciccio Pupo, la signora Pina, Ciccio Marino, il gemello Massimo, Becky, Ilaria, Claudia, Valterino, Rosangela che non c'è. Rosangela che non c'è. Stefania che voleva seguirci, ma non Stefania ha potuto che seguirci. Non ha potuto. Chiunque si veste elegante dopo la laurea. Sì. Tutti sì, quelli sì, che sì, si vestono. Perché guardate che il dottore è uno status sociale, va mantenuto. Uno dottoressa. Status di fatus. Dottore, chiami un dottore. C'è Peppone che si tiene la faccia. È perché non hai capelli, se ne metterei i capelli. Ha detto lui. Soprattutto ho tirato una dentata al microfono. Aia. Sì, io. Ovviamente ringraziamo il nostro special guest che viene direttamente dal guest. Scusate, dovrei dire una cosa veloce a Ono Sendai che non lo mando, ma baffanculo. Ho detto basta. Scusate se facciamo uso personale del mezzo pubblico. Momento di serietà. Niente ragazzi, basta. Abbiamo finito di salutare tutta questa gente. Io saluto Bubina, che non l'ho salutata, che ci sta ascoltando, lei sa. Ciao Bubina. E chi salutiamo Bubina? Più? Salutiamo Bubina, conosce Bubina? Tutti conoscono Bubina. Tutti. E niente, quindi salutiamo tutti, anche quelli che non ci stavano ascoltando. Perché così poi bricconcelli possiamo minacciare. I San Giovannesi, anche se sono pisciatori. Probabilmente non ci stanno ascoltando, cucinano, mangiano capretti, anche loro. No, non li mangiano i capretti. Mi suggeriscono che i San Giovannesi non mangiano capretti. E poi salutiamo il nostro amico Piernisci. Un saluto ad Anna. Ad Anna pure, sì. Peppone è uno stronzo. Peppone è una merda. Piernisci, il tarlo, il cantante. Anzi, la merda è meglio di Peppone. Il cantante, salutiamo pure il cantante. Il cantante, e gli auguriamo tanti di queste note. Eh sì, l'abbiamo già salutata. Vabbè, non sapevo. Salutiamo il cantante. E poi salutiamo il fratello di Antonietta, che ha avuto l'onere e l'onore di assaggiare il frappè di pesce e spada a sua insaputa. Bravo! E poi salutiamo lo zio di Giovanni. Pinco Pallino. Poi salutiamo il bar, ci sta ascoltando il bar, la pasticceria Dolce Napoleone a San Marco Argentano. E siamo in diretta, li salutiamo, a ciao. Breve ci faranno avere i loro dolci. Sì, vi prego. Poi ci sta ascoltando il bar centrale di Loggiano Gravina. E tutti i nostri 11 contatti che hanno avuto il coraggio di ascoltare. Si chiama invidia questa cosa. Invidia, Peppo, te strazzemo. Peppo, chiudi la bottega. Peppo, l'ha capita. Quanti ascoltatori fate voi, Peppo? 100. Oh, sì, 100. 1000, 1000. Pagati, oh. Pagati, 100. Babbo, va. E vabbè. Insomma. E quindi... Allora, l'appuntamento è a giovedì prossimo. Speriamo alle 20. Ora, stesso orario. No, stesso orario, è un po' strano. Allora... Allora, tendenzialmente alle 20. Dovessero esserci problemi, non è che voi chiudete il computer, why you? State sintonizzati con la speranza buona che prima o poi cominceremo, no? Anche perché, come diceva il detto, che un puntuale è destinato a un sacco di solitudini immeritate. Questo l'avevo detto. Yalla, come si profonda tu, Antonietta. Basta. Antonietta Dip. Quindi JM. Diamo i nostri contatti. Si fa così alle radio. Dice che alla fine dal contatto. Niente, cercateci su Facebook, Ciotia dall'etere, la nostra pagina. Oppure su Fuori Onda Radio. Su fuoriondaradio.altervista.org. Ascoltateci, ascoltate anche i nostri amici clandestini ogni lunedì. Oddio, se non li ascoltate no. Non si dispiace a nessuno. Su iTunes non ci siamo ancora, Ciccio no. Pupo. Siamo su iPhone, su... Ma siamo chi? Tu che c'entri? Tutti siamo. Noi siamo, voi siete e ci sono. Ah sì, potete scaricare la fantastica app per Android per ascoltare Fuori Onda Radio ovunque voi siate, sempre durante la vostra giornata. E basta. Questo programma è stato presentato da... A Qualete, giovani fin da giovani. Non è una... Bene. E niente, a voi studio è tutto. Qui ci sono... Ma vi devo dare il nome? Ci diciamo? Sì. Rimaniamo anonimi. È finito. Buona serata a tutti, grazie Gioti. Ciao.